Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo. Finale in Australia, vittoria a Roland Garros, quarti a Wimbledon e qui una vittoria, cioè un anno incredibile. Abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo, che è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas. Tutti convocati di Carlo Genta. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Ma sappiamo che i giornali piace esagerare. Quindi noi sappiamo, il nostro obiettivo principale è il campionato, indubbiamente. E poi dall'altra parte c'è un sogno da continuare a rincorrere. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età. Arrivare in fondo, siamo già tra le prime 8 d'Europa, se pensiamo che 15 mesi fa siamo arrivati settimi per la seconda volta di fila in Italia, credo che sia già un bel traguardo conseguito, però insomma ci vuole molta fortuna. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. È inevitabile che la Champions rappresenta, ripeto, un sogno che vogliamo accarezzare, che lo vogliamo cullare. Adesso siamo nei quarti, vediamo cosa l'urna ci prospetta. Io da questo punto sono molto fatalista. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una volta che prendo e una volta. Eh sì, amici miei, adesso si inseguono i sogni, ma con piena legittimità. La Juventus lo sta già facendo dal gradino delle prime otto, aspettando l'altro sogno, forse più grande, forse più difficile, quello del Milan con il Barcellona. Juventus Celtic 5-0, l'ultima volta tra le prime otto della Juventus 2005-2006, ma non con numeri così mostruosi: 18 partite senza perdere in Europa, 4 gol subiti, quindi miglior difesa d'Europa. Buffon imbattuto da 490 minuti, ma che si sono messi in testa questi di vincere la Champions come Alessio Tacchinardi? Ciao Alessio. Ah, buon pomeriggio a tutti. Senti, facciamo sentire questo ritornello. Hanno imparato a sognare, ma è giusto così, perché questa Europa non ha padroni in questo momento, Alessio. Ma non ha padroni, ma sicuramente c'ha squadre, due o tre squadre che sono veramente al top. Penso che il Bayern, il Real, e io sono convinto ancora al Barcellona che possa fare qualcosa di importante. Sono squadre veramente solide, complete. Lo stesso Borussia Dortmund è in realtà molto importante. Detto questo, però, la Juve non è da meno. Sì. Hai detto prima te, numeri impietosi, numeri che fanno veramente paura agli altri, perché è vero che la Juve non va in Champions da tanto tempo, ma cominciano a guardare con questa squadra a numeri importanti, è una squadra veramente che gioca, che segna, che non subisce gol e comincia a fare veramente paura, perché è una squadra che sta prendendo veramente la mentalità anche europea dopo aver vinto l'anno scorso e essere ancora in testa quest'anno al campionato italiano, ma veramente stava creando un'autostima importante anche per provare ad arrivare fino in fondo in Champions. Mi pare che comunque ci sia un equilibrio pazzesco. Ieri un colpo di ginocchio e un rimpallo di Lavezzi ha permesso al Paris Saint-Germain di passare. L'altro ieri, come sappiamo, l'espulsione stramba e la magata di Modric, il gol di Cristiano Ronaldo. Insomma, Alessio, se il Milan sbatte fuori Messi, di top player non ne restano poi tanti in giro. Cristiano Ronaldo e forse Ibrahimovic. Vero, vero. Detto questo, penso che è stato un peccato che Manchester sia uscito, perché penso che sia la squadra più solida, più completa, e vedo un Paris Saint-Germain invece, poi magari sarò smentito, una squadra di stelle ma non ancora una squadra. E quindi io penso che, come dici te, ci sarà il top player che può essere Ronaldo, Ibra, ma le altre se la giocano. Se deve essere una partita spettacolare, perché sono tutte squadre che giocano un gran calcio. Detto questo, anche il Milan da italiano spero che passi, anche perché ha dimostrato di essere in grande salute. Sarà una battaglia, sarà durissima, ma se dovesse passare, attenzione anche al Milan, perché sì, il Milan è una squadra che continua a crescere, continua a prendere granelli di autostima importanti, quindi sarà una dei quarti di finale di assoluto spettacolo. Sì, se passa anche il Milan è senza più top player, il trionfo del comunismo, eh. Speriamo che Berlusconi non ci senta, squadre operaie. No. Ma guarda, io più che trionfo del comunismo, direi trionfo di allenatori e di progetti, sì, di squadre che veramente si cementano giorno dopo giorno con la parola importante che è il lavoro. Perché Allegri, dalle disgrazie dopo Ibra e dopo Thiago Silva, dagli iniziali, ha veramente lavorato, ha veramente ritrovato quella, diciamo, la bravura che aveva Cagliari, che un po' si era smarrita dando sempre il pallone del gioco a Ibra, perché Ibra comunque ti cambia una squadra. È tornato ad essere un attore veramente importante, quindi io non penso tanto al comunismo, ma penso tanto al grande lavoro e ai grandi allenatori che hanno queste squadre che arriveranno nei quarti di finale. Sì, la mia favorita è il Real, ti dico la verità, Alessio, più che per CR7, per Cristiano Ronaldo, per Mourinho, che è sempre più un genio, a mio parere. Stavolta si è messo tutti contro, perfino la sua stessa squadra. Io penso che Mourinho sia il numero uno a trovare quella scossa di adrenalina che serve, quella tensione positiva che serve per dare ai giocatori quel qualcosa in più. Quindi veramente sa dove toccare le corde giuste, o il presidente, o l'ambiente, la tifoseria, o gli stessi giocatori, per creare quella cattiveria interna che poi una squadra deve avere. Quindi è un maestro in quello, è il numero uno, è bravissimo, sono d'accordo con te. Se vedi, come ha visto che il Real, soprattutto in campionato, aveva mollato, doveva trovare qualcosa per dare la tensione, quella, sì, cattiveria a questa squadra che l'aveva persa. Sì, e allora io contro tutti, tutti contro di me, giocate per voi stessi, e lui si siede lì e vince. Cioè, lui poi con questo numero di nemici vuole tutti contro, però devo dire che il grande allenatore tasta nell'ambiente quando c'è meno, certo, adrenalina, meno tensione. Anche lo stesso Antonio Conte, secondo me, è uno così, anche se non ha ancora trovato le difficoltà come per averle avuto Mourinho a Madrid, perché a Madrid quest'anno ha veramente avuto delle grandi difficoltà, e lui è riuscito a toccare le corde giuste, andare contro Casillas, contro questo, mettere fuori Pepe, di tutti i colori, però fino adesso mi hanno avviato che è un genio. Senti, ti chiedo ancora questo, ma tu quanti, domanda tendenziosa, quante botte hai visto negli spogliatoi delle varie Juventus che hai attraversato? Abbastanza. Però rimangono lì, bravo, è lì che volevo arrivare. Però devo dire una cosa, quella su Vieri, quella di Vieri e Lippi, a distanza però di 5, 6, 7 anni è uscita da altre parti. Vabbè, ma si aprono anche gli archivi della CIA prima ogni tanto, dalle altre parti apri la porta, sanno già tutto. Questo è un peccato, veramente è un peccato, perché lo spogliatoio è sacro, quindi a noi è uscito dopo 5-6 anni. Beh, ma anche Deschamps e Lippi, no? Anche Deschamps e Lippi, ma anche tanti altri. Sì, anche Deschamps e Lippi ha fatto delle belle litigate. Però ecco, deve rimanere nello spogliatoio. Io penso che uno dei segreti che ha la Juventus o può avere il Milan siano quelli che veramente lo spogliatoio, l'ambiente è sacro, ci si dice tutto in faccia e non esce niente. Quella può essere veramente una problematica per un ambiente e soprattutto un allenatore che deve tenere comunque personalità importanti, personalità forti, e invece magari qualcuno fa scappare le notizie che creano tensione nell'ambiente. Certo. Alessio, grande, ti ringrazio. Ciao, buon pomeriggio. Un abbraccio, Alessio Tacchinardi. Ragazzi, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, e voi come sempre grandi protagonisti. Vi voglio tutti, 800 24 00 24. Poi mi rimproverano perché ho detto la settimana scorsa che il Bayern era la favorita, adesso ho cambiato idea. Dopo il traffico vi spiego perché. Che ti frulla in testa? E presto? Non mi toccare! Mostreranno a questa città. Lay down the boogie and play down. Chi è la talpa? Mi hai sparato, mi hai trascinato per tutta la città e poi mi hai usato. Adesso gli ordini li do solo io. Oh, comandi tu ora. Sei la talpa. Sì, sono la talpa. Tutti convocati. Una partita che mi rimarrà sempre impressa nella mente, nel cuore, è quella con all'Old Trafford contro il Manchester. Ce la puoi fare, Old Trafford, ce la puoi fare, Antonio. 800 24 00 24, vi voglio tutti, anche chi scrive la Champions la vincerà una tedesca, Bayern o Borussia, può essere. Dicevo la settimana scorsa, Bayern Monaco è una squadra che mi piace da morire, è una squadra che ha fisicità, talento, convinzione, ha tutto per salire sul gradino più alto d'Europa, è stata beffata l'anno scorso in casa sua. Poi vediamo come si sistemano le cose, come si accoppiano, come si formano i tabelloni. Io propendo così a occhio per una finale, ma la butto lì perché adesso è impossibile capire se questo confronto ci sarà, magari in semifinale eccetera. Real Madrid e Bayern mi sembrano le più forti, però i segnali importanti arrivati anche da Old Trafford, e poi torneremo a parlare di Mourinho che si è inventato questo nuovo modo, no, per provare a vincere una Champions, completamente diverso da quello che aveva utilizzato al Porto, da quello che aveva utilizzato all'Inter. Allora era io e la mia squadra contro tutti, e i giocatori si buttavano nel fuoco per lui, e Tô faceva il terzino, e tutti erano disposti a qualunque cosa. Adesso invece tutti o quasi lo detestano. Nello, Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo intervenire su questo discorso, che trovo un po' retorico, che spesso fa Conte, ultimamente ho sentito fare anche a Buffon, sul concetto del fatto che 16 mesi fa erano settimi. Sì. Guardate come siamo stati bravi, ma qualcuno gli dovrà ricordare che nel frattempo hanno acquistato qualche giocatorino che prima non avevano, vedi Pirlo, Vidal, Vucinic, Listeiner, Asamoah, cioè è una squadra completamente diversa da quella che c'era prima, quindi l'affermazione mi sembra un po' forzata. Con tutto sì, rispetto per una d'accordo. Grande squadra, sono d'accordo con lei. Cioè, questa Juventus si è formata negli ultimi due mercati, si è formata soprattutto e ha comprato, cioè ha acquisito quella cosa che non si può comprare, che è una grande autostima, e che cresce con il correre del tassametro, no? Soprattutto in Europa. A proposito, si sente dire in giro che la Juve, Raiola l'altro giorno era a Torino e tutti a dire ma Ibra stufo di Parigi, magari torna alla Juventus. Oggi leggo di Rooney che ha i ferri cortissimi con Ferguson, andrà via in estate, 25 milioni di euro. E si dice che tra gli interessati, i pretendenti, ci sia anche l'Inter. A me quello che mi dà profondamente fastidio, anche Evelo Esprima, è questi alti bassi della nazione, della stampa professionale, sportiva e non sportiva, nei confronti di Mario. E questo a sorpresa, un Mino Raiola d'antan, ma voi ci credete? Ibra alla Juventus e Rooney all'Inter, ma chi glielo paga lo stipendio? Luca Ancona. Ciao. Ciao. Ciao Carlo. Ben trovato. Grazie della compagnia. Grazie a te. Ascolta, io avrei una piccola curiosità da chiederti a te o a magari qualcuno che sì. Mi può rispondere. Vediamo. Nelle ultime due partite della Juve, sia in Coppa che in campionato contro il Napoli, ho fatto caso che le stellette sopra lo stemma che indicano gli scudetti vinti sono coperte. Non ti so rispondere, Luca. La semplice curiosità che l'ho notata ieri sera, mentre sia ieri che venerdì, mentre vedevo le partite. Non ci ho fatto caso, quindi non mi sono posto la domanda, quindi non ho fatto ricerche. Provvederemo adesso. Per il momento lascio in sospeso il quesito, e lascio in sospeso la curiosità tua e magari di qualcun altro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Tra un po' sentiamo anche un po' di stramaccioni, dopo Alfredo da Milano. Alfredo? Sì, pronto? Pronto. Ciao, Carlo. Ciao Alfredo. Sì, ciao. Senti, innanzitutto vabbè, complimenti per la trasmissione, sempre molto garbata. Molto Muchas gracias. Io volevo intervenire sempre sull'argomento che ha introdotto il primo ascoltatore. Io sento, allora, fatto salvo che ritengo che la Juve sia effettivamente una gran bella squadra, e Conte, mio malgrado devo dirlo da milanista, è effettivamente un bel allenatore, sa fare tutti i cambi, li utilizza, non ha nessun, diciamo così, favorito, ma pensa solo, diciamo, all'interesse della squadra. Quello che mi lascia un po' perplesso è il fatto che loro insistano sempre su questi 15 mesi, sul fatto che erano 7 punti indietro. E tuttavia questo insistere su queste cose, secondo me, è un po' fastidioso e indica forse una certa debolezza, anche perché, come piccola polemica, i mesi non sono 15 ma sono 22, perché il campionato è terminato a maggio del 2011, siamo a marzo del 2013. E nel frattempo sono arrivati un po'. Non ce li ha mai avuti. No, ma poi sono passati un po' di giocatori, cioè mi sembra impossibile paragonare le due squadre, le due realtà. Questa è una Juventus, quella era un'altra, quindi. Non so dove vogliano arrivare facendo questo discorso, forse vogliono sentire che sono stati bravi, che hanno lavorato bene, che sono cresciuti, ma questo è nei fatti, no? È lì da vedere, uno scudetto vinto, l'altro quasi, a mio parere, ritorna in Champions League ed è tra le prime otto d'Europa, va bene. Se vogliamo fare della statistica, diciamo che due campionati fa la Juventus ha fatto schifo, poi ha preso dei giocatori, a cominciare da Pirlo per andare via via su tutti gli altri, e adesso è dove merita di essere, io credo, in campionato come in Coppa. Poi vediamo il prossimo turno, questo è stato morbido, o la Juventus è stata brava a renderlo morbido, perché ha chiuso il discorso su un campo sul quale in pochissimi avevano vinto, anzi una sola, il Barcellona, nelle ultime 23 partite, e la Juventus alla fine, con anche un po' di fortuna, li ha passeggiato. Stramaccioni, sentiamolo in conferenza stampa, un Inter che rischia grossissimo questa sera in Europa League, non soltanto per il valore della partita, non soltanto per la posta in palio, ma per mille altre ragioni, per mille altri motivi, con Cassano, reprobo che andrà in campo. Allora, a Stramaccioni ovviamente è stato chiesto di Cassano. Può confermare che Cassano è con la squadra e, insomma, secondo se ci sono delle novità riguardo a quello che è successo tra lei e il giocatore. Se va a sentir, no? È Cassano che suona, è l'artista. Domanda su Cassano e parte il sottofondo lounge, perché Cassano è un artista e quindi, come chi organizzava la regia della conferenza stampa di Stramaccioni, come ha sentito la parola Cassano ha fatto partire la musica, ma poi è arrivata anche la risposta di Stramaccioni. No, Antonio è qui, è stato regolarmente convocato, si è allenato e domani sono sicuro che dal primo minuto in corso di partita darà il suo contributo. Dunque, darà il suo contributo, questo lo vedremo stasera dal primo minuto a Walter Klein, contro una delle squadre più in forma d'Europa e contro quello che è a tutti gli effetti un ex Villas Boas, ve lo ricordate, tattico di Mourinho nel primo anno di Mourinho all'Inter. Ha parlato in conferenza stampa anche, lo faccio sentire perché è divertente, Juan Jesus. Io sono primo a mi incassare con me stesso quando sbaglio. Incassare. Quindi però volevo aiutare l'Inter sempre, dove si gioca la sinistra, a destra, anche alla porta. O cosa che penso è aiutare sempre, è questo che vale. E quindi quando gioca male è incassato Juan Jesus, come avete sentito. Questa sera naturalmente sarà titolare, cioè non c'è molta scelta, non è che si tratta di preferire una competizione come l'Europa League, che peraltro devo dire l'Inter, e qui va dato grande merito all'Inter e alla Lazio che gioca stasera contro lo Stoccarda, purtroppo in uno stadio chiuso per i motivi che conoscete. Va dato grande merito all'Inter e alla Lazio, perché finalmente vediamo due italiane che giocano nella maniera più seria possibile l'Europa League. Poi questa sera non è certo un discorso di turnover, perché l'Inter quelli ha e quelli può far giocare. Oggi come il campionato contro il Bologna non ci saranno grandi cambiamenti. Uomini contati, Cassano compreso. Alessandro, provincia di Grosseto, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, una domanda forse ridicola, Ma per i sorteggi della Champions, io gli faccio una domanda a lei. Sì. Il Milan è 3 anni che trova il Barcellona. Sì. E la Juve si ritrova ai quarti. C'è qualcosa dentro quelle palline? Giocando, giocando con una squadra come il Celtic, mi dica lei il valore tecnico. Ecco, l'ascolto per radio, me lo dica lei. Il valore tecnico del Celtic? E se secondo lei il mio discorso è sbagliato, perché secondo me la Juventus, alla Juventus è andata bene, così come ad esempio è andata male al Real Madrid, no? Che ha beccato il Manchester United, è andata peggio, molto peggio al Milan, che si è ribeccato il Barcellona. I sorteggi sono questione di fortuna, no? Poi ovvio che conta essere bravi prima, quindi arrivare primi nel girone per avere un secondo turno più, un primo turno eliminatorio più morbido, ma insomma Celtic è una squadra di calcio europea, ripeto, prima della sconfitta con la Juventus nelle ultime 23 partite sul suo campo aveva perso 2 sole volte con il Barcellona. Certamente non è una squadra che ha grandissimo talento, ma sul suo campo ha grande corsa, grande carica, grande fisicità. Non a caso ha passato il turno in Champions League. Questo non può essere un caso. Ci fermiamo per la borsa, poi vi aspetto di nuovo. 800 24 00 24, numero verde per dire tutto quello che volete. Il tuo è un rosso relativo. L'arbitro lo espelle. No. Incredibile errore pacchiano dell'arbitro. Tutti convocati. Possiamo salutare loro. Torni, noi dobbiamo torni andare... Stefano? Torni più tardi? Non lo so. Ti posso convocare? No, si sta aprendo un dibattito sul canale dei messaggi SMS 349-238-6666. C'è chi ricorda che il Barcellona aveva perso nel girone in casa con il Celtic. C'è chi scrive Milan qualificato con 8 punti, Chelsea è arrivato terzo con 10 punti. Mi sembrano abbastanza battaglie di retroguardia. Guarderei più a ciò che le nostre sono riuscite fin qui a fare sul campo. La Juventus ha completato un'opera che era già praticamente incorniciata dopo la vittoria scozzese, e il Milan adesso lo aspettiamo tutti con grande curiosità, credo con grande aspettativa, credo con grande ottimismo anche. Allora, 800 24 00 24, intanto grazie a Franco Piantanini abbiamo scoperto anche l'arcano di ste stelline sulla maglia della Juventus, come ricordava prima l'ascoltatore. Sì, Luca D'Ancona in linea, adesso lo sentiamo. Allora, da tutto l'anno mi dicono la Juventus gioca con queste 2 stelle coperte da una banda nera, perché la Nike aveva già fatto le magliette con le 2 stelle, loro dicevano di stelle ne abbiamo 3, e allora banda nera sulle 3 stelle, sotto la scritta 30 sul campo. Se poi volete comprare la maglia della Juventus con 1, 2, 3, 5, 10 stelle, andate lì e la comprate senza problemi. Ve le aggiungono Claudio della provincia di Rieti. Giusto? Ci siamo? Ok. Claudio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io volevo intervenire ancora riguardo a Mourinho. Sì. Penso che sia sicuramente un grande allenatore, però trovo che il Real Madrid vada in difficoltà contro le squadre che facciano anche del fisico e della prestanza atletica al loro punto di forza, mentre abbia capito benissimo come affrontare ad esempio il Barcellona. Dietro, difesa bloccata e poi contropiedi organizzati. Volevo sapere lei cosa ne pensava, e quindi vedo eventualmente anche uno scontro Juventus-Barcellona, cioè Juventus-Real Madrid, con la Juve favorita addirittura favorita. Sì, ma Buffon ha detto che primo comandamento è evitare il Real, e Buffon è uno che per solito ci vede correttamente. Mourinho è molto bravo nel preparare le partite e nell'adeguare comunque la squadra alle caratteristiche di ogni avversario, nulla lascia al caso. Ma è il modo di gestire questa squadra, diametralmente opposto rispetto a quello che usava all'Inter, che mi convince sempre di più che sia geniale. C'è da desumere una carenza congenita di discernimento? Niente affatto. Contrariamente a quanto si crede, l'intelligenza non è una caratteristica individuale, è un fenomeno collettivo, nazionale, intermittente. Perché Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF. No sé si es el poder del señor Villar en UEFA. No sé si son muy simpáticos. No sé. No entiendo. Yo tengo experiencia de jugar con 10, con 10, no contra 10, con 10. Ho giocato due semifinali con 10, una con l'Inter, un'altra con il Madrid, tutte e due contro la stessa squadra. E lo so che è difficilissimo. Oggi con uno di più, Ozil ha aperto, più ampiezza nella squadra, Modric con più creatività e abbiamo cambiato la partita. Perché? Io non intendo perché. Siamo andati a rispolverare questo vecchio adagio che lo rappresenta molto bene e molto bene conosce Mourinho. Fabio Monti, oggi inviato il Corriere della Sera a Londra per vedere l'Inter contro l'ex tattico di Mourinho, Villas Boas. Ciao Fabio. Eccoci qui, buongiorno a tutti. Ciao, senti, no, stavamo dicendo, non so se condividi, che Mourinho si dimostra sempre più geniale perché si è inventato questo nuovo modo di provare a vincere la Champions League. Dato che nessuno gli voleva bene, allora ha esasperato questa situazione, adesso lo odiano tutti. Lo odia la stampa, che nemmeno l'ha menzionato ieri, la stampa spagnola, come abbiamo visto e letto, o meglio non letto, lo detestano i giocatori, lo detesta Casillas, e lui sottolinea comunque l'importanza di aver preso un portiere affidabile che aveva chiesto a gran voce quest'estate. Pare che non lo sopporti più di tanto nemmeno il suo figlioccio Cristiano Ronaldo. Allora stavolta non è la squadra contro il mondo e i giocatori disposti a morire per lui, ma è lui contro tutti. Sì, ma Mourinho può fare può dire qualsiasi cosa, perché le stelle sono quasi sempre con lui. Ricordo che il giorno della Coppa dei Campioni dell'Inter, praticamente a 5 minuti dalla fine, era fuori addirittura dal girone a del freddo di Kiev. Sì. E poi è riuscito a ribaltare il risultato in 3 minuti, 4 minuti. Insomma. Adesso a Manchester, mi pare che il Manchester avesse la partita in mano, è arrivato questo cartellino rosso e direi che ha ribaltato completamente la situazione. Quindi finché le stelle non assistono, lui può dire qualsiasi cosa. Sì, anche se io ho avuto l'impressione, tutto sommato, è arrivato quel cartellino rosso ingiusto, come abbiamo detto tutti e in tutte le lingue, soprattutto in lingua inglese. Però Fabio, mi ha sorpreso il fatto che comunque con un giocatore in meno, il potente Manchester, il freddo Manchester che sembrava avere la partita in mano, sia crollato. Ma a quei livelli credo che meno si senta tanto. Eppure a Barcellona con l'Inter un uomo in meno per tutta la partita e andò in un altro modo. Mi pare che il modo di giocare del Barcellona si adatti di più a giocare persino con un uomo in meno, visto che loro devono sempre andare in porta col pallone. Invece il Real ha questo gioco verticale, cioè questa attenzione appunto per il gol, e quindi si soffre di più. Il ritmo si era alzato e credo che il Manchester si abbia avuto questi 10 minuti in cui è andato un po' in barca, perché poi ha ripreso in mano la partita. Sì, quando ormai era tardi, appunto. Si diceva prima con Alessio Tacchinardi in questa Champions League un po' comunista, sempre sperando che Berlusconi non ascolti, lo dico per la seconda volta, rimangono pochi top player. Se va fuori anche Messi, Ibra, che in Europa top player fino in fondo non lo è mai stato, e appunto CR7. È il trionfo delle squadre operaie. Direi che il teorema di Platini, che ha voluto una Coppa dei Campioni da socialismo reale. Da socialismo reale, bravo. E quindi adesso ce l'ha. Insomma. Ma non è detto che sia un male, insomma. Senti, dimmi di Inter, che stasera rischia duro, non soltanto sul piano del risultato, non soltanto perché il Tottenham è una delle squadre più in forma d'Europa, ma ci sono molti argomenti in ballo e c'è Cassano in campo, mi pare, fin dall'inizio, artista mal sopportato. Sì, non c'è dubbio che è una partita molto complicata per l'Inter, perché la squadra è in una condizione sempre abbastanza precaria, abbastanza incerta e abbastanza indecifrabile. E poi perché la squadra, l'avversario è molto forte, forse una delle squadre più in forma in questo momento in Europa addirittura. Se non perde nel campionato inglese dal 9 dicembre un motivo ci sarà. Certo. E poi c'è tutto un una serie di discorsi collegati, compreso quello di Cassano, che rende la strada di Stramaccioni tutta in salita. Sì, ma i rapporti adesso quali sono, onestamente? Tra Cassano e la squadra. Cassano è all'Inter per contratto almeno fino al 30 giugno e bisogna tenerlo, insomma. Però non è che ci sia una grande passione nei suoi confronti. Però deve giocare perché non ce ne sono altri. L'Inter è arrivato con i giocatori contati e questi saranno anche in campionato contro il Bologna, l'impressione. Un'ultima cosa, Fabio, scrivi di Villas Boas oggi sul Corriere della Sera che si sta rifacendo una reputazione e che in fondo, come ha sottolineato lui, è un ex interista, tanto che dice: chiamo 2-3 volte alla settimana i miei amici all'Inter, non ho idea di quali siano questi amici. Sì, ma lui è in queste squadre, in tante cose molto diverse, quasi l'opposto di Mourinho. È molto simile a Mourinho, che dice di essere interista, cioè. Mi pare che da come si è congedato dopo la Coppa tanto interista non era. Ma si è appena detto che vuole andare con Moratti a vedere la finale di Europa League insieme, sì, a braccetto. Sì, no, per quello lui è bravo. Anche come allenatore, per carità. No, ma non c'è dubbio su questo. Fabio, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao Fabio Monti, buon lavoro. Allora ragazzi, 800 24 00 24, il numero verde, adesso il traffico, poi ci aspetta ancora le battute di Allegri. Domani il Milan gioca a Genova, come sapete, aprendo la 28esima di campionato, anticipo degli anticipi domani sera 20:45. Balotelli c'è ma andrà in panchina, ha detto oggi Allegri, tra le altre cose. Lo sentiremo e poi l'immancabile angolo dello sceicco, che non possiamo farci mancare neanche oggi, no? Giusto? A dopo. Io zappavo la terra, mi venivano a prendere dopo zappavo la terra e andavo a giocare. Tutti convocati. Echi delle tifoserie sui messaggi SMS, segnatevi questo pronostico: il Bilan con la B e i suoi sogni saranno cancellati al Camp Nou da una manita catalana. Caro mio, amore mio, io lo segno anche questo pronostico, però firmati, perché sennò che senso ha buttarla lì senza buttare il sasso, senza far vedere la mano o la firma in questo caso. Sì, tifosi del Celtic ieri splendidi come sempre. Scusate, come sempre. Michele da Roma. Buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità. Io invece spero che il Milan possa superare il Barcellona, sono convinto anche che in virtù del risultato dell'andata ce la possa tranquillamente fare. Mi auguro per noi italiani di rivedere la finale di Manchester del 2003 tra Juventus e Milan, e secondo me c'è anche un'ampia possibilità che questo avvenga, sarebbe molto bello per il calcio italiano. Sì, non so, Michele, mi scusi, anch'io lo spero. Ha fatto grosse cose, la stessa Juventus nel girone preliminare ha eliminato il Chelsea, certo, campione d'Europa, quindi come diceva prima lei, ha potuto avere un sorteggio più favorevole perché ha vinto un girone che era molto complicato, insomma. E speriamo di poter vedere queste due nostre squadre arrivare in finale e giocarsi una degna finale in un teatro meraviglioso come quello di Wembley, insomma. Sì. Tanto oggi è il giorno dei sogni, l'abbiamo sentito anche in musica, l'abbiamo sentito nelle parole di tutti i protagonisti juventini di ieri sera, lo sentiamo nelle parole del Milan, perché quello, ovviamente, l'idea di eliminare Barcellona a questo punto è possibile, è da realizzare ancora e non sarà semplice, ma è un grande sogno. Finale tutta italiana, siamo nelle mani di Dio. Non credo che, insomma, sarà molto difficile, onestamente, perché io vedo, nonostante tutto, squadre più forti rispetto alle nostre due, e Real Madrid e Bayern Monaco mi sembrano più forti. Borussia Dortmund, squadra estremamente moderna, pratica, fisica, interessante, quindi anche quello un ostacolo serissimo, più del Paris Saint-Germain, che con tutte le sue stelle gioca ancora in modo abbastanza orrendo. Fabio da Padova? Sì. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. E sì, io volevo chiedere due cose. La prima, volevo dirle che da estimatore del Barcellona, anche se sono milanista, ma ho sempre stimato il Barcellona per come ha giocato a calcio fino adesso, mi sembra che però un po' anche questo fatto di ogni intervista caricare questa remontata, questa partita, sia simbolo un po' di sapere di essere un po' in crisi e quindi cercare un po' anche di ritrovarsi mentalmente, di ricaricarsi, perché io che mi ricordo, insomma, il Barcellona non ha mai dovuto caricarsi prima di nessuna partita, prima, perché no, con l'Inter, diciamo, ci aveva provato. Si ricorda la sì, però era un altro risultato, insomma, era un 3-2, bastava sì. Un gol, era comunque. E dopo volevo dire una cosa, sì, scandalo, l'arbitro a Manchester con Real Madrid, sì, è vero che ha fatto un errore madornale, però è vero che se anche Ferguson come Mourinho avesse un attimo cambiato la disposizione della squadra, Mourinho sì. Insegna che a Barcellona in 10 per un tempo e mezzo ce la se la può fare, ma certo, ma poi era in vantaggio 1-0, si è tenuto Rooney in panchina, quando un giocatore come Rooney in queste partite onestamente è impossibile tenerlo fuori, è impossibile tenerlo, non solo per l'esperienza internazionale, per la classe che ha, perché da solo mette in difficoltà la difesa avversaria, insomma, quello è stato un errore grave anche di Sir Alex Ferguson. Ora io credo che sia stato un colpo di fortuna del Real Madrid e di Mourinho quell'espulsione avventata, però credo che ci siano, come ho già detto, delle responsabilità pesanti anche da parte del Manchester United, che è letteralmente crollato non appena visto quel cartellino rosso, e da una squadra come i Red Devils non te l'aspetti. Franco Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, innanzitutto vorrei ringraziare per farmi dire il mio parere su Mourinho. Sì. Io ripeto che noi degli allenatori come Mourinho ne abbiamo anche in Italia. Mourinho è bravissimo, certamente, però nella Champions League ha sempre avuto tutti gli arbitraggi a favore. Tipo col Manchester United, mi ripeto con quello che avete detto prima, mi scuso, però ha sempre avuto anche l'ultima volta, cioè, l'arbitraggio a favore. Certamente che se ti diagnosticano una grande malattia, uno col cartellino grosso crolla per forza, è come una persona si dedica anche a un cancro. Cioè, è logico che tu crolli. Beh, insomma, il parallelo non era, paragone non era, mi è sembrato felicissimo. Mourinho ha avuto i suoi colpi di fortuna in Europa sotto forma di arbitraggi. Quando eliminò il Barcellona con l'Inter non fu in quell'occasione particolarmente fortunato, invece con l'arbitro, come ricordavamo prima. Fu fortunato con il Chelsea, che ancora sta a reclamare un rigore. Vabbè, ma sono episodi. Io credo che questo faccia parte del calcio, della fortuna che indubbiamente Mourinho si porta dietro, no? Si porta dietro il suo lavoro, che si svolge sul campo, ed è uno straordinario allenatore, ma si svolge anche molto nella gestione del gruppo, e scopriamo nella gestione del gruppo, appunto, in questi giorni un modo opposto di dirigerlo rispetto a quello che aveva all'Inter, al Porto, alla Chelsea, alle sue squadre precedenti. Paolo Varese. Pronto? Pronto, ciao Paolo. Volevo intervenire prima su Cassano. Prima su Cassano, cosa diciamo? Sì, allora, aspetti. Mi sente? Sì, adesso meglio. Allora, prima su Cassano, perché sembra che quando succede qualcosa all'Inter, non so perché c'è sempre questa cosa qua. Cioè, Balotelli, che è andato al Milan, che ne ha combinate di tutti i colori, al Manchester, che si è picchiato con Mancini, e all'Inter che ha pestato la maglietta. Insomma, si sono tirati lì una bella bega, però al Milan questo non succede per ora, no, per ora. Però a quanto pare. E poi volevo sapere invece sul fatto che siamo un punto indietro dal Milan, e sembra che siamo 20 punti indietro, e non giochiamo bene, però mi sembra che qualche punto in più il Milan l'ha avuto con qualche aiutino. Sì, e poi se Mourinho vince a 5 minuti dalla fine, voglio dire, la partita dura 90-95 minuti, che segna il quinto, l'85esimo, io non penso che ci sia niente. Anche no, Fabio Monti che diceva che ha cambiato la partita, dura 90-95 minuti, non penso che ci sia. Sì, la partita dura 90-95 minuti, e vale anche il discorso per cui i punti li fai prima o li fai dopo, valgono allo stesso modo. L'Inter li ha fatti prima, il Milan li sta facendo adesso. È chiaro che in questa corsa verso il terzo posto, mi pare che così l'inerzia stia dalla parte del Milan, al di là dei semplici dati numerici. L'inerzia è nelle mani del Milan, e l'Inter è in un momento di difficoltà oggettiva e anche di personale da schierare in campo. Allora, Allegri cosa ha detto oggi? No, non è assolutamente un pre-Barcellona-Milan. Domani sera la formazione che mi manderò in campo sarà la migliore per quella partita. Non ci sarà turnover assolutamente, perché credo che non siamo nelle condizioni di poter ragionare in questo modo, e non mi piace ragionare in questo modo. Allora, innanzitutto Balotelli è stato 8 giorni fuori dalla squadra. Ieri si è riaggregata al gruppo e ha fatto tutto l'allenamento con la squadra dopo 2 o 3 giorni di lavoro differenziato. Credo quasi sicuramente che non partirà a titolare. Credo che Balotelli poi in questo momento non abbia 90 minuti nelle gambe. Uno che non dico sicuramente, che ho in mente di far riposare, è Abate. Ambrosini vediamo. Ambrosini è in grande forma. Sono Sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono lo Sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello Sceicco. No, si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma. La tosse, ragazzi, mi sa che con tutti gli accidenti che mi ha mandato lo sceicco romano mi sto ammalando, No, allora, altra tappa di questo siparietto la leggo oggi sulla Gazzetta dello Sport, dove sta scritto: fonti vicine allo sceicco al Kaddoumi rivelano come questi, sceicco appunto, accompagnato dal solito Michele Padovano, anche domenica era all'Olimpico, pur se non in tribuna d'onore, quindi in incognito sostanzialmente. Dicono: vedete, porta fortuna alla Roma, ma chissà se anche denaro fresco. Ancora una settimana e poi il balletto finisce, perché scade il termine per cacciare il grano, no? Come direbbe De Laurentiis. Walter Bari. Buonasera, signor Genta. Buonasera. Buonasera, io sono un tifoso dell'Inter da quando avevo 3 anni. Benissimo. Secondo me non voglio essere ripetitivo, si cerca sempre un pochettino di parlare male di questa squadra, forse a sproposito, perché l'Inter, Moratti abbiamo capito tutti che non vuole consumare più soldi, ha vinto questa Coppa dei Campioni e da allora lui si è messo un pochettino a risparmiare, mentre una volta i soldi li buttava, e questo l'ha capito tutto il mondo. Li buttava, mi sembra, li buttava in alcuni casi, mi sembra il verbo giusto. In alcuni casi li ha proprio buttati, in altri casi li ha spesi bene. Terzo, quarto in campionato a un solo punto dal Milan. Sì. Siamo arrivati a una bella posizione in Europa League. Abbiamo fatto 11 vittorie consecutive fuori casa, che nemmeno Mourinho l'ha fatto. Addirittura abbiamo fatto anche la semifinale di Coppa Italia a Milano, basta un semplice golletto e arriviamo in finale. Sì. Qual è questo disastro dell'Inter, signor Gente? Me lo dica lei, grazie e buonasera. Walter, domani magari proviamo a dirlo, speriamo di no, speriamo che vada tutto bene questa sera a White Hart Lane, partita molto difficile e, ripeto, molto importante per vari aspetti del tempo che manca alla chiusura della stagione. Il tempo che manca alla chiusura del programma invece è scaduto. Grazie a Franco Piantanida, autore, grazie a Roberto Scaltritti in regia. A domani alle 2. Tutti convocati.